Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. All'improvviso la radio passa un brano musicale, un inaspettato brano, tutto per intero. Mi sento risucchiare indietro, molto indietro nel tempo, di quasi 40 anni. È la primavera del 1975. Sono Patrizia, vivo a Barzanò, in provincia di Lecco. Ho 53 anni, faccio l'architetto e vivo sola con il mio gatto. Il racconto è un'azione drammatica compiuta e in quelli più riusciti i personaggi si svelano attraverso l'azione e l'azione è a sua volta condotta mediante i personaggi. Molte persone tra quelle convinte di volere scrivere racconti non sono disposte a cominciare da lì, dai fatti. Vogliono parlare di problemi e non di persone, di questioni astratte e non di situazioni concrete. Hanno un'idea, un sentimento, un io strabocchevole e vogliono essere degli scrittori oppure largire saggezza in forme abbastanza semplici perché il mondo abbia ad assorbirle. In ogni caso non hanno una storia in testa e se anche l'avessero non sarebbero disposti a scriverla. In assenza di storia partono alla scoperta di una teoria, di una tecnica, di una formula. Oggi cominciamo con un pezzo di un testo scritto diversi anni fa da Flannery O'Connor, che era una scrittrice americana che è morta, è vissuta nella prima parte del Novecento, è morta nel 1964 e invitata a tenere, lei è soprattutto una scrittrice di racconti brevi, e invitata a tenere una piccola lezione su come si scrivevano i racconti, diceva esattamente questo: scriviamo di storie e di persone che le vivono, di persone o di personaggi, raccontiamo episodi e in questo modo comunichiamo tutto il resto, comunichiamo degli sentimenti e di emozioni. Buongiorno a tutti, sono le 16:09 minuti in punto, questa è Radio 24, il programma che state ascoltando si chiama Voi siete qui, la voce invece è la mia e quella di Matteo Caccia. Ogni giorno con questa voce qua raccontiamo delle storie che non sono le mie, però sono le storie di tutte le persone che hanno voglia semplicemente di mettersi lì al loro computer e scrivere un episodio della loro vita. Noi quando abbiamo cominciato 3 anni fa chiedevamo una cosa semplice, chiedevamo una storia, un racconto che racconti qualche cosa di voi, che detto così vuol dire tutto e vuol dire nulla, e infatti all'inizio era un po' complicato capire che cosa stessimo chiedendo, poi alla fine invece gli ascoltatori, che sono ovviamente più intelligenti di noi, hanno cominciato a capire di che cosa parlavamo e che cosa avevamo bisogno. Un episodio, una cosa semplice, un inizio, uno sviluppo e una fine. Voi siete qui, @radio24.it se avete voglia di scrivere una storia e di inviarcela, una massimo 2 pagine e noi ci facciamo una puntata. Se invece siete arrivati qua adesso per caso, eravate in macchina, non sapevate che radio ascoltare, tutte le altre vi annoiavano, quest'ora al pomeriggio, poi il resto è mamma mia, prova a mettere su DJ adesso. Cosa c'è su DJ adesso? Non lo so. Cosa c'è su Radio 3? Fahrenheit, su Radio 3 c'è sempre Fahrenheit, su Radio 2 non lo so, Radio 1 non c'è più, c'è ancora Radio 1, insomma giravate per caso sulla radio, siete capitati qui, se avete voglia di ascoltarvi altre puntate di questo programma, o domani o venerdì, da lunedì al venerdì siamo sempre qui alle 16, altrimenti in podcast. Ma veniamo alla storia di oggi dopo aver cincischiato un po'. L'avete sentita? Patrizia parla di una cosa molto semplice, anche lei. È la musica della tua vita. Anzi, no, scusatemi, non la musica, la canzone della sua vita. La sua la sentiremo tra poco. La vostra invece 349-238-6666. Voi siete qui Radio 24 su Facebook, voi siete qui R24 su Twitter. Matteo Caccia è il mio semplice su Twitter. Sul profilo sono già arrivate, ovviamente sono le più disparate. Per Valentina è Strange Overtones di David Byrne e Brianino. Per Neva è Voglio sentirmi tua, la canzone della mia vita. Per Emanuele è Lucky Man dei Verve. Per Rossana il compleanno di Guccini. Per Martina Cirano di Guccini. Guccini va per la maggiore, ha già 2 su 5. Poi Wind of Change degli Scorpions. È inutile che facciate quelle facce adesso, perché non faccio in tempo, ma dopo ve la faccio sentire Wind of Change, la tiro fuori qua dall'iPad e ve la faccio sentire. 349-238-6666, la canzone della vostra vita, quella che in qualche modo vi ha segnato e quando la risentite venite risucchiati là, anni fa, quando l'ascoltavate tutti i giorni della vostra vita. Questa qui è la storia di Patrizia, questa qui soprattutto è la canzone di Patrizia. La La mezzanotte è passata da un pezzo, ma il termometro dell'auto segna ancora quasi 30 gradi. È una strana estate, questa del 2013. All'improvviso Radio 24, di cui mi piace ascoltare e chiacchierare notturno, passa un brano musicale, un inaspettato brano, e tutto per intero. Mi sento risucchiare indietro, molto indietro nel tempo, di quasi 40 anni. È la primavera del 1975. E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, canta De Gregori. E si palesa chiara l'immagine del vinile fra quelle mani, che erano sempre un po' tremanti. Quanto ne ero segretamente innamorata. Il compagno di classe più bello, per me inavvicinabile, che timidamente sognavo e con cui condividevo il viaggio in pullman che ci portava al liceo. Era la ragione che la mattina mi spingeva giù dal letto alle 6 e mi faceva sembrare meraviglioso l'inverno di freddo e nebbia del nord di Milano. Facevamo il liceo scientifico e tutte le mattine si partiva da un paesino della provincia di Lecco che si chiama Missaglia verso Monza. Mai e poi mai avrei potuto sperare in una sua tenera attenzione. Era un'adolescente impacciata, una crisalide avvolta nel bozzolo che si sarebbe poi trasformata in una giovane conscia della sua sfrontata intelligenza. Bella no, non lo sono mai stata. Ma in quel tempo mi sentivo la più brutta del reame nel confronto con le coetanee, cittadine già un po' fighette. Neanche immaginavo allora che anche un'alba chiara a cui piace studiare può avere un certo fascino. E quindi da dentro il mio baccello non percepivo che viaggio dopo viaggio la nostra amicizia si consolidava. Qualche pomeriggio a sentire musica, è lui che mi insegna a ballare rock and roll, mi invita a sciare, ed io timorosa di una brutta figura mi nego al telefono usando il babbo come scudo insuperabile. E poi, alla fine della primavera, agli sgoccioli dell'anno scolastico, in uno dei nostri viaggi di studenti pendolari mi chiede: devo fare un regalo, che cosa mi consigli? Rimmel, gli dico, è meraviglioso, non puoi sbagliare. E qualche giorno dopo, eccolo, con il disco fra le mani, che erano sempre un po' tremanti. Me lo sventola sotto il naso, troppo bello, mi dice, non potevo regalarlo. Non avevo ancora capito, e la scuola era finita. Lui sarebbe partito per luoghi lontani, un altro continente, un'altra vita. Ci siamo rivisti anni dopo e in quell'occasione mi avrebbe ricordato il suo proporsi e il mio continuo ritrarmi. Io troppo goffa per capire, lui troppo preso dal ruolo di giovane leone per manifestarsi in modo evidente. Il mio amico era non molto alto, biondo, con dei begli occhi azzurri e molto sicuro di sé, almeno apparentemente. Ed io ora sono qui a spedire le mie labbra a un indirizzo nuovo, canta Francesco. E mi domando come sarebbe stata la mia vita se avessi vissuto quel primo amore che mi avrebbe fatto sentire anche un po' prima della vita, oltre che prima della classe. E poiché da sicurezza nasce sicurezza, chissà, avrei evitato il matrimonio sbagliato e il susseguente uomo ancora più sbagliato, anche senza matrimonio. Le crisi di panico, quelle di solitudine, avrei aggiunto ai successi professionali una ineccepibile e invidiabile lunga storia d'amore, con regolare contratto e relativi pargoli. La notte è calda in questa fine luglio e la canzone è terminata. Anche il mio gioco si chiude con quell'immagine, quell'avvenente e borghese e noiosa signora che per fortuna non sono diventata mai. E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata. E confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Caro Teo, volevo ricordarti che sabato 7 luglio ad Alessandria c'è la mia festa di matrimonio. Dividere momenti importanti con i veri amici è impagabile. Per convincerti a venire sono disposto a tutto, implorarti e già lo sto facendo, offrirti una degna sistemazione per la notte e ogni altra richiesta ti possa venire in mente. Sono stato convincente? Lo spero tanto. Ciao, Gian. Gian è Gianluca, è un amico che ha vissuto con me. Gianluca è uno di quegli amici su cui sai che puoi sempre contare. Lo chiamavamo il vecchio perché era già vecchio a 25 anni, con le borse sotto gli occhi e la voce profonda. Tutti ci siamo appoggiati a lui e lui si è sempre fatto trovare. E allora sento Mauro e ci organizziamo. Ci diamo appuntamento ad Alessandria per il pomeriggio, direttamente nel locale della festa. Il locale in verità è un'officina che gli ha prestato un amico che fa il meccanico. Quando ci vede, Gianluca molla gli addobbi e ci viene incontro. Nonostante i 40 gradi del 7 di luglio, io e Mauro ci cambiamo in macchina e ci mettiamo i nostri bei completi. Il testimone dello sposo invece si presenta con la maglia del Liverpool. Dice che è un appassionato. Arrivano gli invitati. Non vedo Ivan, il migliore amico di Gianluca da sempre. Qualcuno ci dice che il mese prima ha aspettato la sposa sotto casa e ha cercato di picchiarla. Gian mi chiede di fermarmi a dormire, ha già organizzato tutto. Mario gli ha già detto che per lui va bene, io vorrei tanto tornare, e invece dico di sì. Un uomo con la faccia troppo giovane per la sua età si veste da prete e in scena la cerimonia. Arriva lo sposo, con il testimone del Liverpool, poi una cantante che sembra Hillary Clinton, e intona una canzone dei CCCP sul ponte delle riparazioni. Su quelle note appare la sposa, Giunonica, in blu elettrico, con a fianco una donna in miniatura. Il banchetto si apre, i piatti finiscono subito, così mangiamo vitel tonè a rotolini con le mani. Anche i tavoli finiscono subito, e allora stiamo in piedi. Di fianco a noi, il gruppo rock. Dopo Hillary Clinton si esibiscono loro. Il batterista beve, mi urla qualcosa che non sento, poi mi abbraccia in un vortice di fiato alcolico e di sudore. La prima a ubriacarsi è la sposa, balla e ride. Il gruppo rock finisce presto, il cantante si è sgolato subito. Il terzo a esibirsi invece è un DJ, è molto ubriaco. Si presenta prendendo in giro le scelte musicali che gli hanno suggerito gli sposi e attacca con la sua musica. Gianluca glielo fa notare e il DJ per risposta gli restituisce un cellophane pieno di CD e se ne va. Gli invitati cominciano ad andarsene, la sposa non si regge in piedi. Noi spingiamo con Gianluca perché se la porti a casa, lui invece si arrabbia, ha già organizzato tutto. La sposa dormirà sul divano a casa di Liverpool e noi a casa sua. Visto che è il suo matrimonio, lo accontentiamo. Mettiamo la sposa in macchina e la mandiamo a dormire. La serata potrebbe prendere una brutta piega e invece si trasforma nel momento più sorprendente di tutta quella sorprendente giornata. Il vecchio si mette la console. Al posto del DJ apre il cellophane e mette sui dischi. I REM, i CSI, i Massive Attack, Ivano Fossati, Manu Chao e i Morcheeba. Per il suo matrimonio ha scelto tutte le canzoni di quando vivevamo insieme. Ogni canzone ci riporta a un episodio, un viaggio in macchina, un amore che abbiamo vissuto insieme. Ridiamo e ci facciamo tenerezza. Gian non chiedeva di meglio per il giorno del suo matrimonio. La serata finisce con me e Mauro nel letto degli sposi, la prima notte di nozze, e Gianluca su un divano di fianco. Ci addormentiamo cantando Help the Aged, una canzone dei Pulp che gli cantavamo sempre. Era la canzone preferita del vecchio. Aiuta gli anziani, dice la canzone. Un tempo sono stati giovani proprio come te. Bevevano, fumavano e sniffavano colla, anche loro, proprio come te. Con le convulsioni delle risate ci addormentiamo. Poteva essere un incubo. Le nostre canzoni hanno reso quella giornata una festa. The aged, one time they were just like you. Drinking, smoking, sex and sniffing glue. Help the aged. Capelli biondi, una mano che si regge la testa su un divano di velluto rosso. Questa è la foto che ci ha mandato Patrizia e che trovate ovviamente sul sito di Radio 24, la nostra pagina. Voi siete qui. In questa foto non racconta la sua storia, ma la sua storia l'abbiamo sentita. Parla di un brano musicale, parla di Francesco De Gregori e parla di un ragazzo che con lei viaggiava su un autobus. Pronto Patrizia? Ciao. Come stai? Bene, sono un po' raffreddata oggi, questo tempo milanese mi uccide. Dove ti trovi esattamente, Patrizia? Sei al lavoro? Adesso sì, sono al lavoro, sono in ufficio. Che tipo di architetto sei? Oh, sono un architetto, faccio coordinamento di progetto per edifici complessi. Adesso però c'è un po' di crisi, faccio un po' di tutto. Ok, faccio sempre questa domanda agli architetti: che architetto sei? E loro mi rispondono come se fossi un imbecille. Che architetto sono? Sono un architetto, faccio un po' quello che serve. Anche se effettivamente non ho capito cosa voglio dire edifici complessi. E quando ci sono gli edifici complessi bisogna coordinare tutte le specialità, praticamente ingegneria. Ma nel senso che ci sono edifici semplici ed edifici complessi? Sì, diciamo che se uno deve costruire un edificio di tanti piani oppure complesso sotto il profilo tipologico, okay. Un edificio, un ospedale, ci sono tutte le specialità che vanno un po' in conflitto e bisogna coordinarle. Va bene, facevo finta di interessarmi a questa storia quando in realtà mi interessa molto altro, Patrizia. Anche a me interessa più altro. Innanzitutto qua arrivano messaggi, arrivano una marea di canzoni: gli Animals, The House of Rising Sun, oppure What a Lot of Love dei Led Zeppelin, Do It Again degli Steely Dan. E poi arriva un messaggio che dice, di Maurizio da Firenze, che è per te, dice Patrizia: è una storia stupenda, mi sono quasi innamorato di quella ragazza ascoltandola. Bene, anche io ero innamorato di quella ragazza. Eravamo tutti innamorati di quella ragazza. Anche lui di cui non facciamo il nome, che però insomma non ha avuto la forza per dirlo. Raccontami di quando vi siete rivisti. Ci siamo rivisti circa 7-8 anni dopo. Eravamo due persone completamente diverse. Lui ormai stava all'estero da tanto tempo e io ormai ero quasi laureata. Siamo andati insieme a vedere un film, lui mi ha fatto sentire un po' di brani musicali. Un po' di De Gregori? No, niente Rimmel. E abbiamo fatto quattro chiacchiere, però ormai il momento di magico era passato. Beh, quello lo immagino, insomma, erano passati un po' di anni. Invece, proprio, mi racconti che programma era quando di Radio 24 che ha mandato in onda De Gregori una notte del luglio del 2013? Ascolta, non mi ricordo. Non ti ricordi? Perché era molto tardi, sarà state 1:30, era andata. Sarà stata una replica. Sì, era una replica di qualcosa, sì. E io sono rimasta stupida perché io ascolto quando è tardi spessissimo la radio senza musica, perché almeno mi aiuta a non dormire. Certo, e bam, ti hanno sparato De Gregori un pochettino. Esattamente, sì. Tra l'uschio e il brusco. Senti, parliamo invece di quella immagine con cui ci lasci alla fine del racconto, che è quello che potevo diventare, che per fortuna non sono diventata. Non c'è rimpianto nel fatto, a parte che insomma immaginare che una canzone potesse muovere così il destino è divertente, ma forse è poco probabile. Non c'è rimpianto nel fatto di essere diventata quella noiosa signora di cui parlavi? No, non c'è rimpianto, anche perché magari non sei neanche mai riuscita a diventarlo, almeno spero. Quindi adesso con chi ti vedi? Non faccio domande personali, con chi ti vedi, Patrizia, in questo periodo? Ho un compagno, ma non viviamo insieme, io abito sola con il mio gatto, vedo un sacco di gente, ho un lavoro abbastanza nuovo con dei soci molto giovani, per cui una vita molto movimentata. Ma da quanto stai con questo compagno? Oh, tantissimo tempo, sono 20 anni forse, sì. E non avete mai vissuto insieme? No. Ma lui non è sposato con qualcun altro? No, no, no. E com'è stare per 20 anni con una persona senza mai vivere insieme? È vero che è vero che è meglio? Boh, non lo so. Non lo sai perché non avendo... Per noi è meglio, perché io sono stata sposata, poi ho avuto un'altra storia un po' sì, difficile. Okay. Ma vivete lontani, Patrizia? No, beh, sì, un pochino. Sì. Cioè, tipo che se uno ha voglia di vedersi, prende la macchina e la raggiunge l'altro. Certo, certo, certo. Però poi ognuno a casa sua. Casa sua. Va bene, Patrizia, ti ringrazio moltissimo per la storia racconta e soprattutto per questa suggestione de Gregoriana che altrimenti noi non avremmo messo, non per semplicemente perché siamo abituati a mandare altri brani musicali, però ogni tanto non è male buttare su quelle robe lì proprio da chitarra e mare, vai con Rimmel, che sono sempre quelle lì, sono Rimmel e poi le bionde trecce e qualcosa generale dietro la collina, qualcosa che abbia a che fare col giro di Do, qualcosa che stia lì vicino. Patrizia, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie, ciao. Ciao, a presto, ciao, grazie mille. Eccola qua. La aspettavo. Ti ringrazio, Paolino, perché ne è arrivato un altro di messaggio che dice The Wind of Change degli Scorpions. Tra l'altro, non ho mai capito di che cosa parlasse esattamente questa canzone. Cioè, parla d'amore o di politica? Parla di politica. Vedi che Tiziano Bonini che... Perché quando ascoltavo questa musica era l'epoca in cui non traducevo dall'inglese, facevo solo to the magic of the moment of the glory night. Glory night lo capivo. A posto così, grazie Paolino. La canzone della mia vita, For You, di John Denver. Sono Rita, ciao, siete bravi. Anche tu Rita, non scherzi per niente. Canzone della vita, The Magnificent Seven. E poi Insieme di Battisti, cantata da Mina. E poi ancora Per me Vera dei Pink Floyd. E poi ancora, ed eccola qua, io volevo farvi sentire, mi togli un attimo la base, poi chiudo, lo so, c'è già Oscar Giannino fuori, lo so, ma voglio far sentire questa perché l'inizio è proprio, ci mette credo mezz'ora a partire questo brano, ma quando parte non puoi sbagliarti. Che questa qui la facevano con la chitarra quelli bravi, hai presente? Che si sparavano sto pezzo di solo. Aspetta, è lunghissimo, la mando quando parte. Vabbè, avete capito, è sulle note di Hotel California degli Eagles, eccolo qua, l'ho sentita la prima volta quando avevo 13 anni e da allora non me ne sono mai separato, scrive Alex D'Ascoli Piceno, grazie a lui, grazie a tutti quelli che hanno mandato i contributi riguardo alle loro canzoni della vita, grazie a Tiziano Bonini, a Paolino Corleoni e grazie anche a Margherita Hina, ovviamente. Grazie soprattutto a Patrizia, mi fa ridere sto brano sotto. Siamo in ritardo, lo so. Grazie soprattutto a Patrizia. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Claudio. Abito e vivo a Casina Sugana in Trentino. E la storia di domani è la mia. E parla di gioco d'azzardo e polizia austriaca. Questa è la mia storia e io sono qui.